look at this. Aye, you say you love me and you keep. Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della guerra. Indio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi mi sparo! Prima o poi mi sparo! E allora, quando sono le 22:16 minuti, questa è Radio Possum, scusate per il bisticcio con la musica, scusate per il ritardo, però ci siamo, ecco. Allora, di che parliamo questa sera? Allora, questa sera sentiremo il coordinamento Libere Selvadec e ci faremo raccontare un po' della biciclettata che hanno organizzato per il 20 luglio. E dopodiché varie ed eventuali, insomma, vi racconteremo un po' di offensive, attacchi, sabotaggi, insomma, che abbiamo trovato in giro per il mondo. E vabbè, ogni tanto anche buone notizie, allora. Esatto. Va bene, dai, allora lasciamo che finisca la canzone e nel frattempo ci mettiamo in collegamento con i polentoni, si può dire. E diciamolo. E diciamolo, dai. Yeah. scusate un attimo di pazienza, stiamo cercando di metterci in contatto con la compagna di Libere Selvadec, abbiamo un attimo di problemi, mettiamo un altro pezzo e poi ritorniamo in onda. Allora, siamo riusciti a metterci in collegamento con una compagna del coordinamento Liber Selvadec. Ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutti. Ok, ciao. Ciao. Ecco, ci abbiamo messo un po' a riuscire a telefonarti, ma adesso ci siamo riusciti, ecco, purtroppo la nostra incapacità fa scuola, però ecco, adesso ci siamo. Ok, allora, presentiamo un attimo, insomma, quello che è il coordinamento Libere Selvadec. Voi avete fatto l'8 giugno una manifestazione a Bergamo, avete portato all'interno della città il problema del, insomma, di questa apertura di questi nuovi allevamenti nella provincia di Bergamo, e c'è stata questa manifestazione che ha attraversato la città e che ha portato, insomma, poi di fronte al comune striscioni e, insomma, varie contestazioni rispetto appunto all'apertura di questo, di questi allevamenti. E poi la volta scorsa noi abbiamo letto anche il comunicato che avete fatto uscire sul vostro sito. E niente, insomma, se adesso vedevamo che appunto avete organizzato per il 20 luglio una biciclettata contro questa apertura di allevamenti. Se vuoi un po', insomma, raccontarci sia come è nato il coordinamento Libere Selvade, che già avevamo insomma parlato con altri compagni del vostro coordinamento, insomma, se vuoi un minimo presentarti e poi parlare appunto di questa biciclettata che avete organizzato. Sì, allora partirei un po' da quel testo che citavi in questo momento, e quindi un pochino il piccolo testo che abbiamo prodotto sul dopo 8 giugno e cosa ha significato un pochino sia la proposta del corteo sia un pochino quello che è proprio il senso e il percorso del coordinamento stesso, nel senso che come più volte abbiamo scritto e un poco ripetuto, si tratta sempre di tappe che costruiscono il percorso, e il percorso di una lotta, di una protesta e del nostro dissenso nei confronti dell'apertura di questi allevamenti, sia nella provincia bergamasca che quella cremonese, sia una sorta di tappe e di percorso che permettono di costruire il coordinamento stesso, che si pone un poco come un laboratorio nell'ottica delle liberazioni animali e quindi di lotta a tutte quelle che sono le forme e le plurali forme di sfruttamento dell'uomo sugli altri animali e dell'uomo sulla terra stessa. E dopo aver fatto questo corteo e aver motivato un pochino nel nostro testo il perché della scelta di fare un corteo all'interno nella città di Bergamo e non direttamente nei luoghi degli allevamenti, con la seconda tappa un pochino che ci siamo sentiti di proporre era quella di tornare, andare nei posti dove appunto gli allevamenti, uno è già attivo e parlo di Misano Gerdadda, e l'altro dove appunto tutto si prepara perché ne avvenga l'apertura. E come andare lì, come proporci, la scelta è stata quella di organizzare una biciclettata che sarà appunto, come dicevi, sabato 20 luglio. Ci ritroveremo alle 2:30 al comune di Antegnate, che è un pochino il punto di ritrovo per noi per partire con la nostra mobilitazione, e anche un punto simbolico e anche un po' meno simbolico rispetto al luogo dove appunto verrà in parte decisa quella che sarà l'apertura dell'allevamento proprio di Antegnate. E da lì l'idea è quella di muoversi con una critical mass, di muoverci ognuno con le nostre biciclette e di disturbare. La critical mass vuole essere rumorosa, disturbante e piena, per diffondere a più non possa, a più voce i contenuti, insomma, che ci porteranno poi fino appunto a Misano, dove già i visoni si trovano nelle gabbie e l'allevamento è attivo. Cosa dire, questa seconda tappa è la tappa che ci permette di ribadire la nostra opposizione a tutti questi progetti di sfruttamento che sono appunto già attivi o attivabili o in procinto di essere attivati. Il mezzo che abbiamo scelto, questo della biciclettata, è anche un poco un ripercorrere, se vuoi, il discorso che troppo spesso viene utilizzato su la tradizione dell'allevamento. In questo caso parliamo di visoni, ma il riferimento è agli allevamenti che già sono attivi in quei posti, e quindi il discorso, seppur si focalizza a livello comunicativo sulla questione dei visoni, non esclude la lotta e comunque la contrapposizione rispetto a quelli che sono già tutti gli allevamenti presenti e comunque le varie forme di sfruttamento anche della terra. Infatti, perché ricordiamo che appunto questi allevamenti di visoni andranno a insinuarsi all'interno degli allevamenti già che ci sono di bovini, giusto? Sì, si tratta di una strategia appunto messa in campo da Boccu, il presidente dell'Associazione Italiana degli Allevatori di Visoni, che nel contesto specifico, soprattutto di Misano, cerca di affiancare all'allevamento di bovini quello di visoni, o meglio, ha già affiancato all'allevamento di bovini quello di visoni, con tutta una serie di motivazioni che vanno da una possibile risposta alla crisi, senza interrogarsi nel profondo su come la stessa forma dell'allevamento sia produttrice della crisi, e quindi si combatte sempre con gli stessi, cioè la proposta di Boccu e dell'associazione è un pochino quella di continuare a produrre crisi su crisi e ad utilizzare la crisi come discorso un pochino per portare avanti continuamente progetti di sfruttamento. Sì, infatti insomma, da questi microfoni l'abbiamo fatto più volte questo ragionamento di come la crisi economica sia il grimaldello per far passare anche delle cose aberranti, insomma. Del resto anche lo zoo safari che viene fatto a Ravenna o la TAV in Valsusa viene fatta passare come un'opera che porterà lavoro a molte persone, e per questo è una cosa buona. Quindi diciamo un po' lo specchietto delle allodole, la crisi viene usata un po' come specchietto delle allodole poi per fare cose aberranti, anche se poi nel caso degli allevamenti non sono cose poi così aberranti per quanto riguarda l'opinione pubblica, visto che sono cose aberranti ma normalizzate, ecco, giusto un appunto. Sì. Silenziate anche, sì, silenziate, esatto. non si conosce, quindi una comunque delle questo procedere un poco lento, a volte silenzioso, a volte prendendosi molto tempo, è il tentativo da parte del coordinamento di cercare di riempire dei contenuti, dei buchi che sono sia di tipo informativo sia proprio di riflessione, quindi la necessità di, quando scriviamo, la necessità di unire le pratiche e le parole e ridare un pochino il senso ai gesti, alle azioni, a qualsiasi modalità per darsi dei contenuti, e questi contenuti diventano, almeno secondo il nostro punto di vista, uno dei momenti di costruzione della lotta, perché la lotta sia effettiva e sostenuta poi da una presenza, da una costanza e da un crescendo. E mi chiedevo un po' anche quale fosse, diciamo, come rispondesse un po' l'opinione pubblica, un po' a seguito anche della manifestazione che c'è stata l'8 giugno. Vabbè, io ho partecipato personalmente, quindi mi sono un po' resa conto, diciamo, della gente un po' più, diciamo, nella zona più dello shopping, quando ha visto passare, insomma, il corteo, così un po' di gente coi cani, quindi sai, che c'ha questa sensibilità maggiore nei confronti degli animali, e che insomma leggeva interessata sia il volantino che veniva distribuito sia anche, insomma, gli striscioni del corteo. E vabbè, mi chiedevo un po' a seguito di quella manifestazione, un po', insomma, a seguito anche delle iniziative che voi portate avanti, quali fossero le risposte da parte della gente, sia che vive intorno a questi allevamenti, sia anche appunto della città di Bergamo. Le risposte sono sempre plurali e in varie direzioni, quindi serve. Di fondo c'è un interesse che si sta costruendo, e è un interesse sia rispetto alla questione dell'allevamento in sé, sia un discorso un pochino più allargato di quali siano i significati dell'antispecismo e di che cosa si intenda per movimento di liberazione animale o di liberazioni animali, includendo anche l'uomo e la questione della terra. Di fondo abbiamo trovato un interesse e una curiosità anche nella lettura dei testi, ad esempio, e questo per ora è stato uno, oltre al corteo, è stato uno strumento di comunicazione con le persone. E spesso questi testi, va detto, vanno un po' letti e riletti, e magari sono un po' anomali nelle loro forme, o non tanto nei contenuti ma nella nei modi di scrittura, di proporsi, e hanno, tentano insomma di sottolineare la necessità di fermarsi un pochino a riflettere. Quindi questo a volte produce un, a volte ha prodotto una, se vuoi, difficoltà, altre volte ha prodotto la curiosità di capirci davvero un po' di più. Una cosa a mio avviso interessante è quella come pian piano si stia creando una rete di sensibilità attorno a questa, alle azioni del coordinamento, alle proposte del coordinamento, che porta a, che ne so, durante, alla fine della biciclettata ci sarà una pericena organizzata in uno spazio della, che si trova non troppo lontano dagli allevamenti e che ha dato la disponibilità e l'appoggio sia logistico ma anche di contenuto e di lotta per affiancarsi con quello che è la loro poi specificità di spazio e di progettualità loro, insomma. E quindi ci sarà una pericena in questo spazio di Iurca di Cividate al Piano, e tutto questo diventa un movimento, un pian piano un costruire delle tappe e dei percorsi che rendono laboratorio. Quindi io trovo che queste siano risposte che vengono sia dalla città sia dalle zone magari un pochino più vicine a questi allevamenti, ma comunque un movimento che si intreccia, e quindi un poco questo. Senti, va bene, immagino che lo sappiate, comunque il 6, il 7 e l'8 settembre mi sembra cioè, ci sarà l'incontro di Liberazione Animale, e così, ecco, ci chiedevamo se anche voi avreste partecipato, se avreste portato un contributo su questa campagna nuova, appunto, che merita di essere supportata in generale da tutti e tutte, non solo da chi vive diciamo lì nelle zone limitrofe degli allevamenti, visto che comunque poi non sono gli unici allevamenti d'Italia, e si potrebbe pensare anche in altri posti a ricopiare il lavoro che state facendo. Quindi insomma, partecipate, non partecipate, portate dei contenuti, non lo sapete ancora. Sì, parteciperemo, quindi in quei giorni a settembre anche noi saremo nel posto che verrà deciso. Il posto incognito fino all'ultimo. Esatto, però ci sarà e sarà bellissimo. E c'è all'interno della programmazione ci sarà dedicato un momento anche al coordinamento e a un pochino tutto quello che bolle in pentola, se vuoi, così è stato definito dagli organizzatori quando ci hanno contattati, e il desiderio di mettere in rete, di comunicare e discutere anche di quelli che sono i testi, le proposte, le modalità, e anche quello diventa uno spazio laboratorio dove portare avanti i discorsi, le lotte, le pratiche e la ricerca di senso e di contenuti. Quindi sì, ci si potrà conoscere pure all'incontro di Liberazione Animale Nazionale. Certo. Va bene, allora insomma ti ringraziamo innanzitutto per questo contributo che ci hai portato, e ricordiamo insomma sabato 20 luglio alle 14:30 davanti al comune di Antegnate per la biciclettata Critical Mass verso gli allevamenti. E va bene, ti salutiamo, ti ringraziamo, e allora ci vediamo all'incontro di Liberazione Animale. Grazie a voi. Un'ultimissima cosa, certo, se per certo. caso qualcuno non ha la bicicletta, ci contatti prima che ci organizziamo. Perfetto. Okay. Voi avete anche, non so se avete un blog, sì, sì. un'email, un sito. Abbiamo un'email e un blog. Ah, sì. Ok, se li vuoi dire a tutti così. Allora, la mail è liber.selvadec@inventati.org e il blog è sempre con il nome del coordinamento, quindi www.liberselvadec, questa volta senza punto, .noblogs.org. Comunque le informazioni stanno un po' circolando, quindi è facile trovarci con questo nome, anche se siamo selvatici. Ok, senti, un'ultima cosa, sì. Proprio così al volo, ecco, perché siccome noi siamo di Roma, Aspetta, tu sei di Roma. Allora qua c'è qualcuno che non capisce insomma la parlata nordica, quindi vuole... Quindi liber selvatic vuol dire liberi e selvatici, oppure liberi selvatici, oppure selvaticamente liberi, non so che cosa vuol dire. Allora, significa liberi e selvatici, però si crea anche un poco un gioco di parole e quindi c'è un pochino questo rimando al selvatico libero, quindi non come accostamento di due aggettivi ma o di due nomi, però come selvatici che in più sono liberi e che sono in cammino, come la frase di Toro che si legge sul comunicato. Mm-hmm. Che abbiamo diffuso, che se sei un uomo o una donna libera, allora sei pronta a metterti in cammino e ci troviamo. Va bene, insomma, secondo me ne è valsa la pena di spiegare. Sì. Una cosa molto... Va bene, allora ti ringraziamo, se non hai nient'altro da aggiungere ci salutiamo, penso. No, allora no. Grazie mille. Ciao, grazie. Un abbraccio. Ciao. Allora, partita la musica stecca, mettiamo una canzone e poi continuiamo con la trasmissione. Questi sono i Kalashnikov. rieccoci in diretta. Allora, leggiamo adesso alcuni contributi che prendiamo da Informazione. Svezia, offensiva contro industria della pelliccia e futuri allevamenti di visoni. Offensiva contro lo sfruttamento animale in Svezia. È stata vandalizzata una pellicceria e c'è appunto questo comunicato anonimo che è stato preso da Direct Action. E vabbè, ve lo leggiamo. Nella notte tra lunedì e martedì alcuni attivisti svedesi hanno sabotato l'ingresso di una pellicceria locale, Mattsons. Uno degli ultimi ma anche dei più vecchi negozi che vendono pellicce a Malmö. Sono stati incollati lucchetti, catrame gettato sulla porta, lasciata la scritta ALF e squarciati i tendoni. Fino a che ogni pellicceria sarà chiusa e ogni gabbia sarà vuota. Scusate, stasera non riesco a leggere. Vabbè, io non riesco a leggere mai, quindi vai tranquilla. Perfetto. Vabbè, di seguito ci stanno insomma altri due comunicati, se ve li leggiamo velocemente. C'è un incendiato un garage e un'auto di un futuro allevatore di visoni. Secondo le notizie dei media, un garage, i macchinari, le auto e il suo interno sono stati distrutti da un incendio nella notte del 18 giugno nella periferia della città di Lidköping. Il giorno precedente il proprietario della proprietà, Tom Holson, aveva parlato alla radio locale dei suoi progetti di aprire un allevamento di visoni. La polizia sospetta che gli attivisti animalisti siano i responsabili dell'incendio e anche questa dichiarazione viene presa da Direct Action. E nella notte invece tra l'1 e il 2 luglio abbiamo visitato la casa di Jan Olson, che sta al momento preparando un nuovo allevamento di visoni fuori da Istad. Due auto, un motorino e un piccolo bulldozer hanno subito scritte e il lucchetto d'ingresso della casa è stato incollato. Abbiamo lasciato un chiaro messaggio: no all'allevamento. Questo è solo l'inizio e la situazione è la stessa per tutti i capitalisti che vogliono aprire un allevamento di visoni. Non avranno un momento di pace fino a che non cambieranno idea. Ci sentiamo potenziati nel vedere che le azioni si stanno diffondendo in questo momento in tutto il paese. ALF. Sì, è sempre per continuare su azioni che si sono intensificate in altri paesi del mondo, che erano rimasti assopiti per un po' di tempo. Abbiamo appena parlato della Svezia, ci sono anche gli Stati Uniti, comunque un movimento come quello americano colpito duramente nel corso degli ultimi 10-15 anni dalla repressione, a quanto pare sta riprendendo fiato, e vi veniamo a leggere quelle che sono appunto delle azioni che sono successe negli Stati Uniti. Ma io non riesco neanche a parlare oltre che legge. Perfetto. Ottimo per chi fa radio. Chicago, Molotov contro Burger King. Comunicato anonimo, sempre dal sito directaction.info. Nella notte del 30 giugno sono state lanciate 3 bottiglie Molotov contro un Burger King, da sommare alle altre 2 della scorsa settimana. Anche se gli incendi delle Molotov non sono riusciti a distruggere l'edificio, è stata comunque realizzata una validazione di sfida diretta che merita riconoscimento. Inoltre, la stessa notte è stata rotta una vetrata a una filiale di fast food Popeyes, da sommare all'azione delle ultime settimane in cui sono state distrutte le vetrate dello stesso posto. Sull'ingresso è stata lasciata la scritta: gli oppressori sono stati avvertiti, accerchiata, che ogni monumento dell'uccisione di esseri senzienti possa essere distrutto e reso cenere. È appena cominciata, firmato Chicago Vegan Anarchist Wolf. Poi a Portland, danneggiamento a un'azienda di vendita all'ingrosso di carne. Nella primavera del 2013 il nostro piccolo gruppo si è infiltrato nella proprietà della Pets Quality Wholesale Meats a Portland, nell'Oregon. Sono stati tagliati e distrutti molti pneumatici, diversi serbatoi del gasolio sono stati riempiti di sostanze corrosive e lucchetti bloccati con acciaio liquido. Questa è un'azienda che trae profitto dalla schiavitù, dalla tortura e dall'uccisione di esseri senzienti. Non cercano nemmeno di nascondersi dietro le odiose funzioni capitalisti, verdi, del locale o del sostenibile. Sono un potente, solo un potente rende giusta la sua visione del mondo basata sulla sete di sangue e l'avidità. L'industria della carne è un disastro ecologico per il quale miliardi di animali soffrono e muoiono. Le nostre lacrime non sono abbastanza, agisci. Sempre presa dal sito Direct Action, e anche l'ultima presa sempre dal sito Direct Action. A Portland, sabotati i camion di un'azienda ittica. Nel maggio 2013 sabotati diversi camion del Portland Ocean Beauty Seafood al 2450 di... vabbè, insomma, c'è la via. Attivisti anonimi hanno usato dei coltelli per forare i pneumatici e hanno gettato diverse once di zucchero di canna vegan nei serbatoi della benzina. Giornalmente questi camion trasportano i cadaveri di creature che una volta vivevano libere. Non c'è niente di sostenibile o giustificabile nello sfruttamento della vita marina. Alcuni potrebbero criticare questa azione come non strategica per l'obiettivo più alto di un pianeta vivibile, ma l'azione diretta è una necessità e da qualche parte dobbiamo cominciare. Lo sfruttamento animale e l'ecocidio non sono benvenuti nel nord-ovest pacifico. Con amore e rabbia, alcuni sabotatori anonimi. Allora mettiamo una canzone per andiamo, riposarci. Sì, così un pochino. Ci riprendiamo e poi ritorniamo in onda. Allora, torniamo in diretta e vorremmo insomma dare questa notizia rispetto alla Turchia, Istanbul e al Gezi Park, che insomma negli ultimi mesi ha fatto sì, che centinaia di migliaia di persone scendessero in piazza per la difesa appunto di questo parco che doveva essere abbattuto per costruire un centro commerciale. E a quanto pare la corte amministrativa di Istanbul, con l'approvazione della maggioranza dei suoi membri, ha rifiutato il ricorso del Ministero della Cultura, decidendo di abbandonare questo progetto che appunto avrebbe portato alla completa demolizione di tutto lo spazio verde che sta nei pressi di Piazza Taksim. E vabbè, tutto ciò insomma è sicuramente una vittoria che questo parco non venga abbattuto. Dopodiché ricordiamo che le centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza in tutto questo periodo sono insomma diverse anime che sono scese sì con la scusa anche della difesa di questo parco, ma che hanno portato tutta una serie di altre rivendicazioni e che hanno insomma portato allo scoperto un malcontento che ci sta in Turchia. E la protesta insomma è montata anche appunto portando in piazza tutte queste problematiche. Quindi sì, certo, da una parte contenti per la vittoria di questo per questo parco salvato, però dall'altra ricordiamo appunto che tutte queste vertenze, tutte queste problematiche, tutte queste contestazioni non finiscono qua, ma anzi ancora al giorno d'oggi insomma ci sono persone che tutte le sere si ritrovano in piazza, maggior ragione adesso che c'è il Ramadan. Insomma ci hanno raccontato di gente che porta cibo per strada, e c'è appunto questa scusa un po' di stare tutti insieme, di continuare a portare avanti la protesta contro il governo di Erdogan. E bene, insomma, vogliamo dare qualche appuntamento? Sì, allora, come appuntamento ricordiamo che il 19 e 20 luglio presso la Svegans House, che si trova a Monte San Pietro in provincia di Bologna, c'è una 2 giorni benefit per i prigionieri anarchici e gli inguaiati con la legge. Inizio concerto alle ore 17, vi vengo a leggere uno stralcio del comunicato, vi ricordo come sempre per intero potete trovarlo sul sito www.informa-azione.info. Allora, la repressione per alcuni è una realtà quotidiana, confrontarsi con il pugno di ferro delle istituzioni, con il carcere, gli allontanamenti coatti dalle proprie città, le aule di tribunale, è un'eventualità per chiunque decida di fare di questo mondo e delle sue logiche di sfruttamento un nemico. Chi è colpito dalla repressione non può essere lasciato a sé. Un festival punk hardcore è il nostro modo, fra i tanti, che si possono scegliere di portare solidarietà, di farlo urlando con rabbia e gioia. E niente, questo era appunto la 2 giorni benefit inguagliati con la legge che si terrà alla Svegans House vicino a Bologna. Poi vi ricordiamo che 6, 7, 8 settembre 2013 ci sarà l'incontro di Liberazione Animale, ma credo che di questo avremo modo di... Ne parleremo prossimamente, anche perché ancora non sappiamo il luogo dove sarà, quindi attendiamo che insomma esca questo famigerato posto. No, uscirà l'ultimo. E va bene, e allora anche per questa sera credo che sia tutto. Ok, allora diamo i nostri contatti. I nostri contatti. Allora, il sito è radiopossum.noblogs.org e l'email... Se volete scriverci è lagazzaladra@inventati.org. Va bene, allora come al solito un saluto e un abbraccio a tutti e tutti coloro che sono privati e private della propria libertà personale. Animali e non. Ciao. Ciao.